sei mesi che mio padre morì. Sola ricchezza mia per la madre e per i fratelli alla divane. L'eredità paterna. Una maschera di banditi da strada. La città